Che è uno spettacolo di prosa tradizionale napoletana, è la storia di due femminelli che, sempre emarginati, hanno un riscatto con un atto di eroismo. Poi Scomodi, uno spettacolo di improvvisazione teatrale, quindi stand-up poetry, che è uno spettacolo che mescola la stand-up comedy e con la poesia. Il mostro digitale, poi il mito della bellezza, sulla condizione femminile declinata nel senso di cosa, come e perché vengono costrette le donne a fare in nome della bellezza. E infine chiudiamo con Lei Lear, che è uno spettacolo di sperimentale che mescola le atmosfere vecchiane con i personaggi shakespeariani, in particolare le due sorelle malvagie di Lei Lear si trovano in un non luogo in attesa, insomma, di conoscere il proprio destino. Com'è stata la scelta di questi lavori? Il pezzo si concentra sulla drammaturgia contemporanea. All'interno delle proposte noi selezioniamo quelle che ovviamente ci colpiscono, ma che rappresentano anche la maggior varietà di linguaggi possibile. Quindi, appunto, quest'anno abbiamo teatro civile, teatro di narrazione, stand-up, poesia, teatro sperimentale, prosa tradizionale. Il nostro obiettivo è presentare serate tutte diverse tra loro. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Tutto il programma si trova su www.dovecomequando.net e ovviamente anche sull'evento Facebook Inventaria 2021. Per informazioni è possibile scrivere a inventaria@dovecomequando.net. Undicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma, a Fortezza Est e Teatro Trastevere dal 7 al 17 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro D'Attola. A presto! A presto, grazie, grazie mille. Con Manuela Kusterman, direttrice artistica del Teatro Vascello, per presentare Curiosità Letterarie a Roma, Teatro Vascello, il giovedì dal 7 ottobre al 16 dicembre 2021. Bentrovata. Grazie, bentrovati a tutti voi. Grazie. Ci parli di questo progetto? Curiosità Letterarie, appunto, di ogni giovedì, poi io spero che possa continuare ancora dopo. Sono degli appuntamenti per riscoprire, appunto, si chiama Curiosità Letterarie proprio per questo, perché vorrei riscoprire insieme così agli spettatori o soltanto anche far incuriosire, insomma, le persone a quella letteratura tanto spesso dimenticata, non solo letteratura, parlo anche di poesia, di appunto epistolari, ma insomma quegli autori che non si sa bene perché a volte così passano di moda, per cui non vengono più letti. Proprio per questo si chiama curiosità, perché insomma vado a cercare quegli autori che o non si sono mai letti, oppure magari la gente pubblica voglia di riscoprire con delle cose magari che non hanno mai letto, inedite, oppure soltanto lanciare un piccolo seme per andare invece poi a indagare su questo autore, no? Per cui magari per conoscerlo meglio. Insomma, così sono dei piccoli, diciamo, incentivi per passare un'ora di alta letteratura e spero piacevolmente. Insomma, io comincio con Cristina Campo, che è stata una delle figure più importanti, insomma, del Novecento letterario, e di Corrado Alvaro. Io cercherò in questi appuntamenti di mettere, non dico a confronto, ma c'è sempre un filo rosso che lega i due autori che andrò a presentare. In questo caso Cristina Campo è stata una grande amica di Corrado Alvaro, se ne parla sempre poco della loro grande amicizia, lei infatti lo chiamava anche quel bruttissimo omino, perché insomma Alvaro non era certo un bell'uomo, però lei è stata quella praticamente che l'ha accompagnato fino alla morte, che l'andava a trovare, gli portava delle arance, dei fiori, ed è stata quella che l'ha tenuto per mano veramente fino alla morte, insomma è stata con lui per l'ultimo respiro che lui ha emesso. Quindi è stata un'amicizia di questo tipo particolare, perché chiaramente lei ha avuto tantissimi altri grandissimi amici letterati con cui magari condivideva anche il salotto, le lettere, però con Corrado Alvaro aveva, non dico pena, però questo omino gli aveva fatto tanta tenerezza che insomma gli è rimasta amica, e quindi la trovo un'amicizia così particolare, talmente bella, e li ho accostati per questo, anche perché poi Corrado Alvaro è stato un protagonista anche lui, insomma, della letteratura del Novecento, ma come tanti altri è abbastanza dimenticato. Ecco, io comincerò, credo, con Cristina Campo, è una scrittrice molto particolare, molto difficile. Io leggerò un piccolo capitolo da un libro che tratta della sua infanzia, molto molto bello, di quando lei viveva in questo parco della villa dell'ospedale Rizzoli di Bologna, perché suo zio era un grande ortopedico famosissimo di Bologna e abitavano lì, insomma. Sono già tutti scelti gli appuntamenti e com'è stata la scelta delle letture? No, non sono ancora tutti scelti, perché io ogni tanto voglio farmi sorprendere. Chiaramente ho scelto il primo giovedì e il secondo giovedì. No, sono poi tutti diversi, ecco. Per facilitare faccio due autori al mese. No, non sono tutti scelti, un po' a caso, devo dire la verità. Li scelgo a caso, però soprattutto il filo rosso, che poi appunto per il quale ho scritto una piccola prefazione, è la parola che crea il pensiero, e quindi una parola alta, una parola importante, perché bisogna un pochino, secondo me, anche ritornare a così, non solo a pensare, ma insomma alla letteratura, a leggere. E io spero insomma che questi miei appuntamenti siano soprattutto, dicevo, uno stimolo. Poi appunto sono tutti diversi, per cui ci saranno anche autori non soltanto italiani ma anche stranieri, insomma. Quindi credo che novembre sia dedicato a un po' al mistero, anzi non credo, al mistero, quindi ci sarà Poe abbinato a un altro autore, insomma. Ecco, per spaziare un po', però io vorrei appunto attraverso i racconti, così le poesie, le lettere, i diari, celebrare proprio la parola, ecco, perché mi sembra importante in un momento come questo, la parola che crea il pensiero e crea anche le cose, insomma. Curiosità letteraria a Roma, al Teatro Vascello, il giovedì dal 7 ottobre al 16 dicembre 2021, un saluto e un ringraziamento a Manuela Kusterman che cura questo progetto. Grazie a voi, grazie. A presto. A presto, allora, alla prossima, arrivederci. Con Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Me Dolce per presentare la 10ª edizione di Agorà, teatro e musica alle radici, al Teatro del Lido di Ostia dal 1 settembre al 22 ottobre 2021. Ben trovata! Ben trovati tutte e tutti, e ciao Federico! Per chi non lo conoscesse, Agorà, nonostante le 10 edizioni, ce lo presenti? Agorà è un festival che noi abbiamo cominciato a portare nella periferia est di Roma 10 anni fa, e abbiamo iniziato esattamente da San Basilio, nei cortili delle case popolari, e poi abbiamo unito a San Basilio i cortili di Tufello, poi a un certo punto ci siamo spostati a Pietralata, dove avevamo trovato un anfiteatro in cemento molto particolare, molto bello. L'anno scorso siamo arrivati al Teatro Patologico e quest'anno finalmente al Teatro del Lido. Quindi rimaniamo sempre nelle periferie, ma questa volta abbiamo un partner d'eccezione, perché il Teatro del Lido è veramente una realtà molto importante proprio della capitale e poi di Ostia, chiaramente. Altro partner importante, quest'anno noi per la prima volta riceviamo un riconoscimento molto grande, perché siamo entrati nel FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, e quindi abbiamo il Ministero della Cultura con la Direzione Generale dello Spettacolo che ci finanzierà una parte del festival. E a proposito di questo, ecco, una cosa particolare del nostro festival: fino a 2 anni fa noi facevamo sempre ingresso gratuito, perché crediamo profondamente nel fatto che la cultura sia un bene comune e che debba essere accessibile a tutti. Quest'anno, per tantissimi motivi, questa cosa non è possibile. Poi anche il Ministero stesso impone di essere un po' autosufficienti e quindi di fare biglietteria, anche perché quello che viene finanziato dal Ministero, se va bene, arriva al 60% del totale, se no potrebbe essere anche meno. E dico potrebbe perché ancora non sappiamo la cifra, vabbè, ma questi sono dettagli. Ciò nonostante, noi abbiamo deciso comunque di mantenere una parte del festival assolutamente gratuita, quindi su più di 30, e se andiamo a vedere con le repliche arriviamo a 40 eventi, circa la metà sono gratuiti.

passiamo alla settimana teatrale, all'agenda per quanto riguarda ma anche tutto ciò che è cultura e spettacoli con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, un'agenda particolarmente densa questa settimana perché tra le varie stagioni che pian piano hanno ripreso con energia c'è da segnalare anche che continua Roma Europa Festival con un bel po' di appuntamenti fra il teatro e la danza, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, inizia anche la stagione del Teatro Ambra Iovinelli con un claim molto preciso: ma il cielo è sempre più blu, e si parte questo autunno con un evento speciale, ovvero sia la Terzaneide Sono Ia, il viaggio sentimentale attraverso la narrazione dei ricordi di Ferzan Özpetek, regista cinematografico e teatrale, le sue suggestioni e le figure che hanno ispirato molti dei suoi film. Questo dal 6 ottobre andrà avanti per un paio di settimane e poi si aprirà la stagione vera e propria, insomma, con altri spettacoli di cui parleremo più avanti. Però chiunque ami questo regista avrà l'occasione per andare a scoprire un po' di cosa si tratta questa Ferzaneide al Teatro Ambra Iovinelli. Poi Teatro Quirino, 5-10 ottobre, per il debutto romano di Tutto sua madre, tratto da Le Garçon et Guyenne à table di Guyenne Gallien, con Gianluca Ferrato e la regia di Roberto Piana. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere un profondo, sottile ma esilarante monologo ricco di personaggi che sembra una commedia. Tutti sono interpretati da un unico attore che è un trasformista della parola e della voce. Una prova d'attore. Nel testo si ride tanto, ma si fanno anche delle riflessioni sui condizionamenti familiari, si capisce come ogni rinascita sia provvidenziale anche quando si tratta di un coming out al contrario, ecco, quello di Guillaume, protagonista della storia. Andremo a capire questo coming out al contrario che cos'è dal 5 al 10 ottobre al Teatro Quirino con questa regia di Roberto Piana, Tutto sua madre. Il Teatro Lo Spazio invece dal 7 di ottobre porta in scena Il Rimpiazzo, tratto da Il Sostituto di David Nichols di Giulia Fiume con la regia di Federico Lepera, 7-17 ottobre. Steven festeggia i 35 anni un po' lontano dai traguardi che pensava da giovane di poter tagliare, fa lavori saltuari, umilianti ingaggi televisivi, e il suo sogno è quello di diventare una star di Hollywood. Come farà Steven, appunto, a diventare un attore di successo? Vediamo se ce la farà, lo andremo a scoprire al Teatro Lo Spazio dal 7 al 17 ottobre. 7-24 ottobre, Teatro dei Servi, Luci e Ombre della Ribalta. La Bilancia Produzioni presenta al Teatro dei Servi questo spettacolo di Jean-Paul Allègre con la regia di Leonardo Buttaroni. Si tratta di uno spettacolo interrotto lo scorso anno a causa del Covid che ritorna in scena. Ci sono tanti personaggi sulla scena, portano le loro fragilità, le stranezze, le bizze degli attori e mettono in discussione il mondo del teatro, quindi un lavoro legato appunto al concetto di teatro in cui si ride in questo spettacolo metateatrale e si ride, si fanno dei giochi di parole, insomma ci sono continui interscambi di ruoli tra gli attori e la loro personalità. 7-24 ottobre, Teatro dei Servi, Luci e Ombre della Ribalta. Andiamo a Teatro 2 perché 5-10 ottobre nella rassegna Expo Teatro Il Caso Braibanti, 5-10 ottobre, il testo di Massimiliano Palmese con la regia di Giuseppe Marini che abbiamo visto probabilmente negli anni, e si tratta di Aldo Braibanti che in ottobre del 64, ex partigiano, fu torturato dai nazifascisti, è comunista, omosessuale, artista, poeta, filosofo e viene denunciato per aver assoggettato fisicamente e psichicamente il 21enne Giovanni Sanfratello. Quindi questo processo divampa insieme all'epoca della contestazione, si apre il 12 giugno del 68. Tutti sappiamo che è un periodo particolarmente pieno. Giuseppe Marini con molta cura, con molta sensibilità va a raccontare questa storia che già appunto negli anni precedenti ci è capitato di vedere, torna in scena e lo fa al Teatro 2 dal 5 al 10 ottobre. Cioè, andiamo al Teatro Basilica, dove Daniela Giovanetti e Alvia Reale saranno protagoniste di questo lavoro dal 5 al 17 ottobre, Cuore, sostantivo maschile. La drammaturgia è quella di Angela Di Maso, la regia è della stessa Alvia Reale. Sostantivo maschile è un dialogo pubblico sul teatro, sulla morte, sulla vita, e prova ad andare nei luoghi della memoria, dell'intimità, cercando di trasformare l'individuale in collettivo. Questo è un po' il ricorso all'autobiografia, gli incubi, a questa voce umana che entra dentro, cerca di farsi poi un racconto collettivo. Questo è quanto vedremo dal 5 al 17 ottobre con cuore sostantivo maschile per Frammenti 2021 al Teatro Basilica. Teatro Le Maschere, 5-10 ottobre, Giulia Bartolini presenta Canaglie, che è Giulia Bartolini, insomma, presenta come regista e come autrice, ed è un lavoro con più attori che mette in scena una famiglia italiana. Una tavola intorno a cui riunirsi ogni sera per parlare della giornata, gli studi, i lavori, i battibecchi, la necessità di arrivare a fine mese. E poi appunto spunta fuori una vicina di casa, il parroco sembra un prete, un po' bel po' di personaggi per mettere in scena questa famiglia un po' particolare. Andremo a vedere dal 5 al 10 ottobre al Teatro Le Maschere di che cosa si tratta con Canaglie. La compagnia Diritto e Rovescio presenta In viaggio con Dante verso il paradiso Roberto Erlischi al teatro Off Off dal 7 al 10 ottobre. Andrà appunto a leggere con della musica dal vivo delle parti del paradiso dantesco, e ci interessa parlarne un po' perché anche questo grande attore calca le scene ormai da un tempo molto molto lungo, e ogni volta è un piccolo miracolo, insomma, data l'età, data la condizione, vedere Roberto Erlischi in scena è davvero una grandissima esperienza. Carrozzeria Not, 9-10 ottobre, Cara Taviani, Tuzzi Roll, un progetto di ricerca coreografica, quindi siamo nella danza, che cerca di unire la creatività di varie persone nell'indagine del macro tema della percezione umana del mondo. Nel potenziale narrativo dell'immagine si cerca appunto di analizzare questo potenziale narrativo con delle forme figurative per elaborare quello che è un simbolismo scenico, che è poi quello che andremo realmente a vedere. Questo appunto attraverso il corpo, spingersi nella creazione del fantastico, questo è il lavoro che Chiara Taviani 9-10 ottobre presenta con Tuzzi Roll al Teatro Carrozzeria Notte. Poi è l'occasione per tornare a parlare del Teatro Biblioteca Quarticciolo, perché c'è qualcosa che arriverà poi più avanti e sarà un laboratorio, ma io lo dico adesso perché è un laboratorio che ha appena aperto le sue iscrizioni ed è un laboratorio con costo paravidino sui 20 anni del G8 di Genova, quindi qualcosa di particolarmente importante per questa trasmissione, importante per questa radio, e quindi mi fa piacere ricordarlo. Il laboratorio è rivolto a chi fa o si interessa di teatro, politica, società, quindi fondamentalmente per tutti. Per appunto capire meglio è il caso di andare a vedere sul sito del Teatro Biblioteca Quarticciolo e appunto informarsi un po'. Sul stesso sito possiamo vedere Wabi Sabi Reva, Sofia Nappi, mercoledì 6, domani quindi è giovedì 7 ottobre, presenta con Roma Europa Festival Sofia Nappi, questo doppio lavoro in realtà, Wabi Saba e Reva, sua è la coreografia, sono tre i danzatori, tra cui appunto lei. Wabi Sabi dal giapponese offre una visione del mondo incentrata sull'accettazione della transitorietà delle cose, sulla ricerca della bellezza nell'imperfetto. E questo è quello che andremo a vedere con Wabi Sabi, mentre invece Reva, che ha una durata anche, ha una stessa durata, sono due lavori da 20 minuti, invece dall'indie è riacquisire forza, pioggia. Pone la domanda: cosa potremmo fare se un domani ci svegliassimo privi di tutto ciò che siamo abituati a dare per scontato durante la vita di tutti i giorni? Questo sarà Reva, lo vedremo 7 e 8 ottobre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Teatro di Roma invece, 5-9 ottobre, per Daria De Froliana, Antonio Tagliarini, che porteranno per un numero limitato di spettatori una performance che si chiama Sovrimpressioni Roma, ed è una performance ispirata al film Ginger e Fred di Federico Fellini, e appunto, come dicevamo, dal 5 al 9 ottobre. Poi Roma Europa Festival, dunque questa settimana cose grosse, perché 7-10 ottobre in prima nazionale sul palco del Teatro Argentina andiamo a vedere Trouble, uno spettacolo firmato, udite udite, da Gus Van Sant, il grande regista cinematografico, che ci porta nel grande mondo dell'arte, insomma, un dibattito innescato da Andy Warhol negli anni 60 su ciò che è veramente importante nella società americana, sulla commercializzazione degli oggetti artistici, sulla sostituzione della tecnica con la tecnologia e sul potere della riproduzione nell'era industriale. Grandi valori, insomma, nel lavoro di Gus Van Sant al Teatro Argentina. Ricordiamolo, dal 7 al 10 ottobre per Roma Europa Festival. Poi 8-10 ottobre al Maxi, Mohamed El Khatib, Valérie Mreyen, Guardian Party, quindi una performance per 10 custodi di museo, questo ci viene detto, visitare con un nuovo sguardo i musei d'arte contemporanea. Sarà appunto una performance per poche persone vi invito ad andare a vedere sul sito Roma Europa Festival per partecipare, sembra molto interessante. Poi andiamo anche all'auditorium per Roma Europa Festival, 8 e 9 ottobre con Set of Sets, con Gina Der e Maria Campos, sotto il nome di GNMC, libanese Gina Der e la spagnola Maria Campos, conducono una ricerca artistica per ridefinire i confini della danza, ricercando nuovi territori di indagine e azione. Quindi, 7 danzatori animati dalle musiche live prenderanno la scena dell'auditorium Parco della Musica, 8 e 9 ottobre. Ancora le ultimissime due cose, due lavori firmati, l'uno dal, firmati entrambi dal collettivo Teatro Praga. Il primo lavoro sarà quello di Filipe Pereira, Floral Arrangement, è un percorso tra fiori, coreografie e racconti, quello costruito dal coreografo e danzatore portoghese, se non vado errato, che mette in scena gigantesche processioni, composizioni floreali e negozi di souvenir religiosi, mentre invece per quanto riguarda l'altro lavoro stiamo parlando di Doing It, sempre 9 e 10 ottobre, il luogo è sempre il mattatoio, ovvero sia la pelanda di testaccio, e Teatro Praga, questa volta propone Pedro Penim come Doing It, la confessione di una passione segreta, una dipendenza innocente e oscura che Pedro non aveva mai confessato a nessuno. La sua ossessiva ricerca e catalogazione online di informazioni su diverse isole disabitate o remote ricercate su internet. Da questo segreto cosa andremo a vedere? Lo scopriremo al mattatoio 9 e 10 ottobre per Doing It insieme a Floral Arrangement. Teatro India poi, 5-17 ottobre, Carlotta Corradi, Nel Bosco, in prima assoluta il testo della drammaturga romana che è stato segnalato e premiato ad Ariccione Teatro. Il lavoro porta la regia di Andrea Collavino ed è un'indagine teatrale ispirata alla vicenda di due ragazze romane bollate dalla stampa come le Baby Squillo dei Parioli. Quindi molto interessante questo lavoro che racconta un po' Bosco e quello dell'adolescenza senza moralismi. Il testo si ispira a questo recente fatto di cronaca ambientato in un ricco quartiere di Roma, appunto due ragazzi minorenni coinvolti in un giro di prostituzione minorile. Molto profondo, molto interessante capire con quale sensibilità Carlotta Corradi è riuscita nel suo testo a entrare in questa vicenda. Lo andremo a vedere al Teatro India dal 5 al 17 ottobre. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.